Allora parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Consigli di Beppe Grillo in vista delle elezioni europee. Basta Tampax e viva i pannolini lavabili. Ti giuro, Sì, ma non, non c'è da stupirsi. L'ha detto. No, in resto... vista delle europee. Grillo lancia uno slogan: basta Tampax, sì, sia i pannolini lavabili. Prima ascoltalo, prima di giudicare. Ascoltalo. Sì, chiedo scusa, prego. Allora di che cosa parliamo? Parliamo ancora di un Tampax buttato lì, un usegetto, parliamo ancora di un pannolino. Quando si stanno aprendo, lo dico da 15 anni, scusate, ecco perché sono nervoso, da 15 anni che dico i pannolini si possono produrre in un altro modo, lavabili. Io posso dire una cosa, me ne fotto dei pannolini lavabili. L'hai votato? Della MUCAP. No, ma che c'entra questo? L'hai votato? Ma per mille motivi. Hai votato uno, va ripetuto ogni giorno da qui al 25 maggio, data delle elezioni europee. Hai votato uno che parla di pannolini di Tampax. Questo hai votato. Ma tu te lo immagini, ma uno di Gasperi? Potrebbe dire una grande, no, cosa stai ecologica. Zitto. Una grande tu cosa ecologica di Gasperi, Togliatti, De Gasperi, Moro, Aldo Moro, secondo te parlava di Tampax, Aldo Moro, allora, e l'hanno rapito le Brigate Rosse, capito? Perché Grillo, ma manco, ma non lo, ma chi è che lo, lo fanno in Germania. Ma cosa fanno in la Germania? La Merkel. Ma che fa? In campagna elettorale. Ah, ti dici non usi ha Tampax. Ha abolito i Tampax. No, ma lei, la Merkel, non usa più i Tampax. Non li usa. Grillo, non li usa più. È evidente, non li, in Germania lo fanno. No, no. Usano il biodegradabile. Però non è finita qui, i consigli di Grillo. Dai, ma... non si, aspetta, stai calmo, stai ma tranquillo. Sono arrabbiatissimo. Ma siamo ancora all'inizio. Mi è arrivata una querelina. Sono arrabbiatissimo. Aspetta, dopo, oggi. Ne parliamo per dopo. Per il testo di una querelina. Dopo. Sì. Allora, secondo consiglio in vista delle europee da parte del signor Grillo: con gli scarti di macelleria si può finanziare, non so, non ho sentito bene, la vermicultura. La vermicultura. Beh, non sputare, dai, su. Numero uno al mondo, gli indiani. 500.000 macellerie si stanno mettendo insieme perché lo scarto della macelleria era uno scarto di putrefazione, casino. Lo buttavano via con dei costi enormi. Allora sono nate attività. Prendono gli scarti della macelleria e fanno vermicultura. E creano posti di lavoro con i vermi. Allora quando hanno i vermi lo danno a quello alla pescicoltura, perché i pesci mangiano i vermi. E allora creano posti di lavoro nella pescicoltura. Allora la pescicoltura cosa fanno? Con gli escrementi dei pesci, alla fine prendono gli escrementi e li danno a un'azienda che ha aperto, che fa, che vende funghi. Eccoci qua, la Zanzara, 800 24 00 24. In questo weekend è successo di tutto, caro Parenzo. Soprattutto c'è stato il fuori onda tra Toti e la Gelmini. Tra Toti e la Gelmini e Maria Stella, certo. Beh, devo dire la verità, insomma, la questione è più... nulla di nuovo, si può no, dire. No, niente di nuovo. Bisogna dire che sono due polli. Cioè, come fanno a parlare così sottovoce, vabbè, pensando che non ci sia un microfono? Era una manifestazione pubblica. L'abbraccio, l'abbraccio con Renzi ci distrugge. Ha fatto capire quello che tutti avevamo capito. Questo il Cavaliere lo dice, però, no? Lo pensa, veramente lo dice. Hanno scritto i giornali nei retroscena però, in tutti detto questi da Toti, detto da Toti fa una certa impressione. Quello che è il consigliere politico. Ma siete voi giornalisti che inzigate ovunque, sempre. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh? In Germania, certo. D'accordo! Oh, quello che mi sorprende è che sia Toti, che sia Toti che Brunetta, parlino, sparino contro le, i fuori onda. Cioè Brunetta parla addirittura di ricettazione, cioè quella roba lì quando viene diffusa è ricettazione. Brunetta, calma però, calma. Ma quale ricettazione? È un fuori onda, sono stati dei polli loro. Toti dice le stesse cose, comunque le dico a tutti, dai. Io le stesse cose le dico in onda da tempo, l'ho detto anche ai miei collaboratori, ai miei amici e agli altri dirigenti con cui ho parlato. D'ora in poi parlerò solo nei fuori onda, così almeno qualcuno mi sta a sentire, perché ha avuto un enorme successo. Può essere un'idea. Forse il tono bisbigliato. Può essere un'idea. So, il voyeurismo tipico dell'Italia. Voyeurismo tipico dell'Italia. Che c'entra il voyeurismo, caro Toti? Non c'entra assolutamente nulla il voyeurismo. Il voyeurismo non c'entra niente. Se tu ti metti lì, se tu ti metti lì in una situazione pubblica, vieni inquadrato e parli, cioè non è che hai parlato all'orecchio, hai parlato un po', no, a distanza ravvicinata, e parli, certo. Uno poi cerca di decrittare quello che vi dite. Anche la giornata della manifestazione a favore degli indipendentisti, con la Lega che fino a un secondo prima considerava questi indipendentisti dei poveri mentecatti, diciamo la verità, anche adesso però insomma ci sono le ci elezioni, ci mette il cappello sopra, ci mette il cappello, si è rivisto anche Bossi, è tornato Umbertone, è tornato, sì, cretino. Se, è tornato Bossi, come mai? Siamo tornati perché finalmente c'è la Padania libera, ma veramente no, si parla del Veneto lì, abbiamo parlato con Squinza. Abbiamo preso una squinzi. Ma tagli, non è una squinzia. Con la squinzi abbiamo parlato. Ma no, e abbiamo tagli zitto. Abbiamo definito che va via napoletano. Ma uno chi? Di Napoli va via. Ma che c'è? Va via. Ma non è e anche quell'altro che conduce quella roba dove cantano. Ai ai ai. Quel Crugano lì. No, quel Cruciani. Ma è tedesco. Pagato dalla Merkel. Ma no, Crux. Sono romano. Lo chiamano, schifo, meglio ancora. E allora siamo tornati con la secessione, gli amici, il tanco. E io sono tornato a parlare anche meglio. Veneto libero. L'ho vista che Padania, sentiva. Il leone di San Marco. L'ho è tornato vista che a parlava, rugire. Parlava hai meglio. Visto? Parlava meglio. Hai adesso... visto, cretino, che abbiamo preso anche il trotto? Vuole dire una cosa qui vicino no, a me? No, no, lasci perdere. Vuole il condurre un attimo il trotto qui no, a Padania libera. Allora, vogliamo risentire ma qualcosa? Ma c'è posto per un'azienda? No, non c'è, non c'è posto. Ma chieda a Squinzi. Può chieda... parlare lei con qualcuno? No, vabbè, allora, Bossi, facciamo sentire Salvini che dice affanculo lo Stato intanto. Salvini non c'è più. In ma no, ma come Salvini? L'ha visto in Albania, fa anche rima. Salvini, Albania, portalo via. Viva il Veneto! Viva la Lombardia, viva il Piemonte, viva tutti i popoli in tutta Europa, in tutto il mondo che non hanno paura. E affanculo quegli stati che usano le forze dell'ordine non per catturare i mafiosi, ma per mettere in galera la gente per bene. Beh, poi abbiamo da dire qualcosa anche su questa ipotesi della candidatura di Marco Tardelli, Marco Tardelli per il partito. Ma che non male. Basta con i giocatori, con gli ex giocatori che vanno a fare politica. Basta Rivera, con quelle buffonate anche quelle. Basta. Ah, scusami, perché può farle un comico politica questo, e non può farlo questo, un calciatore. Su questo Adinolfi ha detto una cosa definitiva questa mattina. Adinolfi. Senti Mario Adinolfi, che non è certamente un berlusconiano. Adinolfi, fammi sentire Adinolfi. Probabilmente di Europa non ne capisce nulla, però è tempo di simboli, allora viva Marco Tardelli, un bello strillo e vai, e tutto sommato la campagna elettorale è anche questo. Non ci stupiremo dell'ennesimo poco competente che va in funzionano Parlamento. Funzionano ancora i nomi di... Ma abbiamo con noi Emilio Fede, direttore, bentornato! non è candidato, non è candidato, il direttore non è candidato, non usa i pannolini, neanche sta bene i pannoloni. No, però iniziato... scusami direttore, come non sei candidato? Qui tutti fanno le liste, il Berlusca fa le liste e tu sei fuori solo perché sei condannato, solo perché ti hanno dato 7 anni, direttore. Sette anni mi hanno dato, 7 anni, interdizione perpetua dai pubblici e dei collegamenti con quelli della Zanzara. Anche voi siete proibiti dalla giustizia, io non no, posso avere ma è impazzito. A che fare ancora con voi no. Perché siete minorenni. Ma no. Ma noi... minorati. Scusa un attimo, ma hai visto questo fuori onda del signor Toti, del tuo amico Toti? Ma sì, ma una roba da un po' da dilettanti, bisogna dire la verità, farsi sorprendere in questo modo. Di la verità, di quello che hai pensato. Dico la verità, io sono vittima e carnefice. Un protagonista, Striscia la Notizia ha vissuto con i miei fuori appunto. Ed erano veri, non c'è niente da fare, che cosa succede, non hanno detto niente in particolare. Ha ragione però Toti, a dire che nessuno avrebbe dato tanto ascolto alle sue parole nell'occasione, naturalmente fuori onda. Cioè tu stai dicendo che quando parla in maniera normale senza fuori onda non ascolta nessuno, questa è la realtà. Il fuori onda dà un po' di curiosità, è un po' una sorta di curiosità, di morbosità. Io ricordo, me ne ricordo una, fatemela ricordare, durante la guerra del Golfo, non sapevo che era in diretta, c'era la vicenda di Bellino e Corcioloni, mi vedo in diretta, Kai sandwich con le gambe un pochino aperte, dico ma quale cocciolone, guarda che cosciolona. E come no, me lo ricordo benissimo, come no. Te lo ricordi bene. Ma te allora, venivi sorpreso quando mandavi a fare in culo i tuoi redattori, facevi l'inferno, dai. Sì, su. Ecco, ho fatto delle cose anche cattivelle. No. Però uno, molto cattive, dai, molto cattive. Però poi si ravvedeva subito, chiedeva scusa. Senti Emilio, ma questo cerchio magico un po' esiste, diciamo la verità, esiste il cerchio magico intorno a Berlusca, dai. Ma guarda, io ti posso dire che il cerchio magico, io non so cosa si intende, fisicamente non ho mai visto nessun cerchio, cioè voglio dire, poi quello che ci siano delle persone accanto a lui che sono, ma come lo possiamo chiamare? Un cerchio? Lo possiamo chiamare delle persone delle quali lui si fida particolarmente. C'è stato un rinnovamento, ecco, diciamo. Ma qual è il rinnovamento? Dove sta? Per un rinnovamento. Ma dove sta sto rinnovamento? Ringiovanimento. Ma dove sta sto ringiovanimento? Dove? Beh, voglio dire, le persone che stanno più vicino a lui, innanzitutto. Le persone che stanno vicino. Ah, no, io non sono mica amare, non rottamare, eccetera. No, ma questo cerchio esiste, diciamo, lo protegge un po', questo cerchio di queste tre donne. Cerchio di affetti. Beh, devo dire che, guarda, non è che lo faccia per. Io sono. Attenzione! Si parla uno dei più grandi ruffiani della storia. Qui parla Emilio Fede. Dunque, detto questo, appunto, però, per sincerità, ad esempio il fatto che criticano la Francesca Franci Pascal. La Francesca Pascal è quella che ha messo, usiamo la parola ordine nella vita privata, non dico quella intima, nella vita anche quella privata, perché non dici quella intima, anche in quella intima. Quella intima non lo so, certamente l'avrà anche messa. A partire da matrimonio o non matrimonio, come? Ma tu come lo segni là sul cellulare il nome della Pascal? Ce l'hai il numero della Pascal sul cellulare, no? Il numero, guarda, sono sincero, ce ne avevo 3 o 4. Negli ultimi tempi lei l'ha cambiata. L'ultima volta che l'ho vista ha detto ti manderò il nuovo numero, ma evidentemente non me l'ha mandato. Come l'hai segnato? Come la segni sul cellulare? No, sul cellulare ci mandavamo dei messaggi tranquillissimi che potevano anche essere intercettati, cioè, capito? Quindi di cortesia, di amicizia, eccetera. Poi adesso l'hanno caricato questo cerco magico di una realtà, secondo me, esagerata. Ma che esagerata? Esiste, qualcuno, no? Esiste, dai. Tu sei invidioso del fatto che Toti faccia parte un po' di questo cerchio magico, diciamo la verità. Sei molto invidioso di questa cosa. Invidioso di più? Come sono invidioso? Perché devi limitare il sentimento? Cioè ti rode proprio il culo, diciamo la verità. Ecco, mi rode il culo. Ma perché? Vorresti essere lì come fa Toti ogni giorno a parlare con Berlusconi? Sono stato per 25 anni. Per ammaricarmi di non esserci più, ma evidentemente lui è più, come dire fatto più a rischio di intercettazioni, forse ne correvo più io. Ma voglio dire, è stato 25 anni accanto a lui e ho imparato molte cose, ovviamente. Oggi, ma perché ti rode così tanto il culo? Ma perché ti rode? Perché ti rode così? La verità. La verità. A me mi rode il culo che non ci sia di non essere lì. Well, now, little mosquito, there must be Sono tempi duri, eh. Non tanto per noi, eh. Ce ne frega niente, eh. Nulla, zero. Ma noi che ce frega? Non ce ne frega assolutamente nulla. Tempi Beh, duri per chi? Ma saranno tempi duri per voi, per noi no. Ma per noi non sono affatto tempi duri, ce ne fottiamo. Noi dai, noi abbiamo detto, eh. Allora, mi sembra che Emilio Fede abbia detto che questo cerchio magico alla fine esiste, no? O sbaglio? No, che non esiste. Ma come non esiste? Dai, su, Emilio. Ma cosa vuol dire cerchio magico? Esiste, dai, su. Ma se, e chi sono? Avanti, chi sono? No, perché allora Francesca Pascale, Francesca Pascale. Non è un cerchio magico. La segretaria della Pascale, l'ufficio stampa della Pascale, signora Ardesi, la e poi la Rossi, la Rossi. Anzi, sai che affettuosamente la chiamiamo la, anzi lei, Francesca, Francia la chiama la stampante. La la stampante. La stampante, perché? Sì. Ufficio stampa, ha detto stampa. Ah, la chiama lei, la stampante. La stampante, sì. La stampante. È quella che si occupa, giustamente. Ma non c'è il cerchio. Io, guarda, diciamo che ci sono stato. Ma è difficile più... ormai parlare. Tu, a te è diventato più complicato parlare col Berlusconi. Lo tengono un po' prigioniero, lo tengono un po' protetto, prigioniero, no, Emilio? Diciamo la verità. Ma fanno anche bene, però ti devo dire la sincera verità che 10 giorni fa io ho mandato un messaggio dicendo vorrei prendere il caffè col presidente e dopo 10 minuti lui mi ha chiamato e io sono andato da lui. Cioè, voglio dire, quindi voglio dire. Beh, te credo, tu all'epoca hai rinunciato a tanti soldi. Quanti soldi hai rinunciato all'epoca? All'epoca ho rinunciato a tutto pur di mantenere la direzione del TG4. Quanto? È quanto? Una cifra di tanto e tantissimo. Quanto? Qua, diciamo la verità. Milioni, alcuni milioni lordi. Più di 5 o meno di 5? Più di 5. Ho detto no, mi tengo il mio stipendio. Hai fatto una cazzata. Infatti il culo mi rode doppiamente. Poi perché ho rinunciato e poi perché non sono lì al posto di Ma te. Quanti no. erano? Quanti erano? 6, 7 milioni? Quanti erano? Erano 10, 10. No, beh, 10, non esageriamo. 6, diciamo 6. Che erano 4, 5, erano tanti. Comunque. Ma come hai fatto a dire di no? Risolvevi tutti i tuoi problemi. Potevi scommettere che quello che ti pareva, giocare come volevi. Certo, per poi ritrovarmi senza il TG4. E chi se ne frega, tanto comunque ti sei ritrovato senza il TG4 lo stesso, dai. È vero, questo è vero. Però francamente io sono, posso dire, fiero di aver detto no. Comunque se parli tu, Emilio, se parli tu lì succede un casino. Se cominci a cantare, ma in generale se cominci a cantare su tutto, sulla Pascale, su Berlusconi, sono cazzi acidi. Benissimo. Ma è vero che se parli sono cazzi acidi o no? Sì. No, guarda, ma se parlo che cosa devo parlare? Ma sei custode dei segreti, dai, diciamo la verità. Ma quali segreti? L'unico segreto che ho, e non lo dite a nessuno, perché se no mi rompete i coglioni un'ennesima volta, qual è? È che mi rode il culo di non essere lì anch'io. Mamma mia, quanto tiro del culo, da impazzire, da impazzire. Mi rode il culo non essere lì al posto di Toti. Dillo forte, mi rode il culo. Beh, vabbè. Mi rode il culo di non essere al posto di Toti, anche perché sarei bravino anch'io. Diciamo un po' bravuccio, bravetto. Senti una cosa, ma Rubi Rubacuori, che gira con milioni di euro tra Dubai e il Messico, chi gliel'ha dati sti soldi? Scusami. Guarda, io voglio dirvi una cosa che rimanga fra di noi. Sì, sempre. Io certamente no. No, tu no, perché stai scannato, giusto? Stai un po' scannato, come si dice a Roma, sì, no? Onestamente sì. Io sono. Ma come sì? Cioè, prendi 15.000 euro al mese da Mediaset. Chi, io? 15.000 Quanti? Euro al mese, sì. Ogni 6 mesi. Ogni sei mesi, dai, ma, su. Ma c'hai anche l'autista, la segretaria, ancora tutto. Non ho più niente. Io sono andato via, c'ho un contratto di consulenza. Scusa, ma chi gliel'ha dato i soldi a Rubi? A Rubi chi gliel'ha dato? Ma che ne so, che lo so io. Chi gliel'ha dato i soldi a Rubi Rubacuori, tutti questi soldi? Io ho letto. Scusa, Laminetti ancora, Berlusconi molla ancora dei soldi a qualcuno intorno a Laminetti o no? No, io per quel che posso capire, posso sapere, sì. E posso non sapere, ho letto come voi. Ma è vero che dà una mano al padre o no? Come? È vero che dà una mano al padre della Minetti, Berlusconi, o no? È vero che il Berlusconi... Guarda, io devo dire la verità. I conti privati di Berlusconi non li conosco, non li ho mai conosciuti. Che lui abbia aiutato molta gente... Vabbè, quello sì. Che io possa... Ma anche il padre della Minetti ha aiutato? io non posso parlare da me, lo conosco, conosco la Minetti. Direttore, non è candidato, non usa i pannolini, neanche i tasselli dei pannoloni. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba. Cari amici, Razzi è stato portato, il senatore Antonio Razzi, a fare un puttan tour, no. Quello che i giovani, sì amico, no, sì no. Sì, è stato portato dalla gabbia a fare un puttan tour, succede anche questo. Perché Renzo Piano, secondo te, non lo hanno contattato? Ma non è questo, ormai fare... Razzi viene utilizzato per queste cose qui. Noi abbiamo fatto l'asta per la maglietta, lo abbiamo ospite ogni tanto, mi hanno regalato anche una splendida cover che faccio vedere agli amici della webcam, se c'è la webcam, poi magari amici non c'è. Amici della webcam, quelli che Grillo. Ci seguono anche in webcam. Amici della webcam, ma cosa... vabbè, esiste la webcam anche in radio, dunque faccio vedere questa cover, te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi, solita cosa che c'è pure sulla maglietta, che viene, come dire, ancora non è commercializzata, dunque state calmi quelli che me l'hanno chiesta, eccola qui. C'è la cover per il mio iPhone. Per il mio iPhone, ecco la scritta di Razzi, capito Parenzo? Ho cambiato no. tutto. Oggi ho cambiato tutto. Ma tu tutto. Ormai hai un gusto dell'orrido che è pazzesco. Vabbè, Antonio Razzi al puttan tour. Il puttan tour è quello che si diceva una volta facessero i ragazzi, sì, no? Quando andavano in giro, sì, per il famoso puttan tour delle ragazze. L'hai fatto o no? Sì, col motorino da ragazzino al liceo, certo, con la Vespa. E che 50. Ci facevi col motorino, scusa? Io da ragazzino al ginnasio giravamo con i nostri amici, con il mio amico Carlo Cianfrone, ad esempio, che è un grande ascoltatore della Zanzara. Attualmente avvocato, non so se si può, se è contento di essere Dai, citato. Su. Sì, col signor Carlo Cianfrone. Andavi, ripeto, al tour con Carlo Cianfrone. Sì, dillo anche tu. Con Carlo Cianfrone. Adesso arriverà un'altra querelina, ma il signor Carlo Cianfrone, attualmente avvocato, principe del foro padovano, andava organizzava a fare con la sua Vespa 50 special la notte. E andavamo nella zona dell'Arcella di Padova a fare il puttan tour, certo, con Carlo Cianfrone, mamma mia. Mio amico Carlo Cianfrone. Ma guardate che lo fanno anche in Germania. No, in Germania no, perché la prostituzione è legalizzata. Ma certo. Allora, Razzi, davanti a un transessuale, senti. Noi c'è la mia proposta di legge, è quella per mettere al sicuro le donne, in modo che non vengano picchiate. Non transessuale. Eh? No, sono donna, sono transessuale. Io sono tutta naturale, come mi ha fatto mia madre. Vabbè. Se si rompe il preservativo. E io prendo la pillola dopo. Lei lo sa che cos'è la pillola dopo? Sì, se non è uscire per non andare in giro. Con la proposta che non vengono dentro, ma dentro, ma. Come fa a non andare dentro? Non stare più in mezzo alla strada. Ma stare su una casa chiusa, buono o male? Ti lasciano il mio numero. Sì, numero. No, ha capito male. Il tuo numero, no, è che c'è il numero. Non è come sta messa questa, ragazzi? Quindi c'è un utente solo. Eh? Un utente solo. Dice, come sta messa questa? C'ha un dente solo questa, ragazzi. Che... A fare l'amore con lei, quanto costa? Lato B? Che è? Lato B? E che ne vuoi? Che è lato B? Cioè, no, è imbarazzante. Quanto costa fare l'amore con lei? Qual è la risposta che ha dato? Non mi ricordo, di euro, non avete sentito voi? E poi dice il lato B? Dai, su, uno un po' un senatore della Repubblica chiedere quanto costa la sodomizzazione per strada, dai, su. Te lo dico da amico. Fatti i cazzi tuoi. Ho capito, però... Ma sei tu che dici meglio Razzi di Piano, cioè, ti rendi conto? Beh, su questo non c'è dubbio. Almeno quello un disegno di legge l'ha proposto in Parlamento sulla legalizzazione della prostituzione. L'altro che cosa ha fatto il senatore a vita? Il famoso senatore a vita Piano ha fatto un atelier? Ha fatto un atelier nei locali del Senato? Sì. Ha fatto un atelier, ho Beh, visto delle foto. Un magnifico, l'atelier. Ma che cazzo serve l'atelier di Piano comunque, al Senato? A cosa vabbè, cazzo serve? Vabbè, diciamola tutta, che, cosa guarda, cazzo veramente, serve? No, sei improponibile. Io veramente pensavo che oggi, anziché mostrare dai, subito su, questa carrellata dai, di mostri, pensavo volessi dedicare la puntata a Scalfari, che oggi compie 90 anni. Ma non me ne frega nulla dei 90 anni di Scalfari. Ma non vale come, a festeggiare, dici? Tu ma non me ne frega niente. Il fondatore di Repubblica. Senti che cosa dice Pier Ferdinando Casini, che credo sia in Parlamento da una trentina d'anni. Aspetta, ancora in circolazione. Aspetta, Pier Ferdinando Casini, hai visto? Hanno fatto quel simbolo adesso insieme ad Alfano, no? Sì, cioè, sì. Il nome Alfano, il simbolo dello scudo crociato. Più di questo, che cosa vuoi dalla vita? Allora, il simbolo nuovo che si presenta all'Europa. E Casini dice che il CNEL è fatto per parcheggiare vecchi sindacalisti. Ma si è mai vista una proposta di legge negli ultimi 30 anni a firma Pier Ferdinando Casini per l'abolizione del CNEL? Si è mai vista? L'abolizione del CNEL, non credo che ci sia un italiano nel mondo che sappia che cosa fa il CNEL, se è utile il CNEL, forse a sistemare, dato che si parla sempre di politici, qualche sindacalista in pensione, lo mettiamo al CNEL. Saremo tutti nudi, tutti rosa, tua rossi. È una cosa patetica, cioè che il segretario dell'UDC adesso si mette a protestare sul CNEL quando è una vita, certo, che esiste il CNEL senza che lui abbia mosso un dito. Vergogna! Dai! Oh, il siparietto di oggi durante la trasmissione di Minoli questa mattina. La figlia di Tardelli chiama il padre, padre Tardelli. Beh, certo, senti il siparietto, senti che siparietto, senti che gentile siparietto che è andato in onda. Intervista della figlia al padre. Intervista. Beh, bellissimo, un grande, straordinario. Dai. You're unbelievable. Eccomi, più sveglia che mai. Ho anche al telefono una persona. E chi? Papà. Ma cos'è questa storia? Tanto buongiorno Sara. Buongiorno. Questa storia è un discorso aperto. È un discorso aperto, ma ti hanno chiamato o no? Ah, vorresti saperlo, come e tutti beh, voi sì, vorreste saperlo. Se mi chiameranno, digli pure a Minoli che magari lo contatterò. Per primi? Forse per primi. Ma qui c'è un licenziamento in atto. Esatto, stiamo attenti a dire certe cose. Va bene, allora aspettiamo questa telefonata. Sarete i primi. Dobbiamo commentare oppure no? Secondo me è geniale. È il caso di commentare o no? Sì, perché è un'idea geniale. È il caso di commentare. È un'idea. Voi due d'amico, fatevi cazzi vostri. No, ma stai zitto, Sara. Allora, è un'idea geniale. Ma quale idea? Non c'è nessuna idea. C'è la figlia che chiama il padre. Beh, ma qual è l'idea? Ma invece è bellissimo. Ma tu devi leccare il culo a tutti, ma per non forza. Se non lecchi il culo, non sei contento. Ma lo lecco. Tu, se Parenzo, io lo dico qua ufficialmente, se Parenzo non lecca il culo al potente di turno o con chi gli sta accanto, non è contento. Chi? La mia amica Sara Tardelli. Ma non me frega niente a me. Che c'entra Sara Tardelli? Potente di che? Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, ma scusa, ma è una pantomima. I potenti li abbiamo schiaffeggiati. In ogni caso, aspetta un attimo, Tardelli dice. Tardelli è divertente dice, il siparietto Tardelli che dice, forse allora, secondi sarete a sapere. Vabbè, non me ne frega niente. È un divertismon, come diciamo noi. Divertismon. Allora, aspetta, fermo, stai fermo. Tardelli, che dice di essere, come dire, no, che incerto ancora, non so se mi chiamano per candidarmi o no, che dice: non sono molto ferrato di politica. Beh, questo discorso dovrebbe chiudere ogni possibilità, no? E invece no. Che consiglio darebbe a un giovane presidente del Consiglio? Lavorare tanto, va bene. In politica io non sono molto ferrato. In politica non sono molto è sincero, ferrato. Almeno. Beh, allora uno dovrebbe dire: non mi candido perché in politica non sono ferrato. Ma che c'entra? Perché uno che va al primo incontro, alla prima legislatura, vabbè, non è che dice: perché scusami, che delle persone che siedono in vabbè, Parlamento, adesso, i grillini sei hanno d'accordo fatto pure su no, questo, dai. Certo, sei perché i grillini questo, mi dai, hanno fatto dell'inesperienza una ragione politica. Dell'inesperienza. Sei d'accordo pure su questo, sì, dai. Sì, perché sei i tuoi amici grillini questo, che tu direttore, lisci, direttore, a cui tu lisci direttore, il pelo. Allora, che dici della candidatura di Tardelli col Partito Democratico? Ma guarda, l'ho letto sui giornali, non ho capito niente, però sono d'accordo questo, con chi, non essendo un professionista della politica, venga certo, poi prestata alla politica e fa qualche casino soprattutto, no? Certo, chiaro, no? Se uno gli offre una candidatura in Parlamento, la potrebbe anche accettare. Ma tu quanto vali sul mercato elettorale? Cioè, se Fede venisse candidato da Berlusconi, quanto vale? Ma direi 5 euro, 10 no, euro. No, quanti voti? Quanti voti? Guarda, credo quanti voti potresti portare allora, a Berlusca? Tanti. tanti. Quanti? Dimmene, dimmi. Io però sto zitto, per carità, perché vedi. Ma non devi stare zitto, non devi avere paura. Quanti voti vali? 200, 300 mila, 200 mila? Stando agli ultimi sondaggi. Quanto? Ma non lo dico. Quanto? Stando agli ultimi sondaggi che ho fatto fare, tanti. Ma quanti? Tanti, ma diciamo da 200 a 300 mila voti. Mila voti, ho capito. Sì. Perché la gente mi vuole bene, la gente ha vissuto la mia esperienza con molta attenzione e anche con molto rispetto. Quando tu dici ma chissà quante cose avresti da dire, tu sei un sacco di cose. Ma io no, ma io le ho dette. Sei un sacco di segreti, sei un sacco di segreti. No, ma la Boccassini non mi ha creduto. Io ma no, ma tu sei un sacco di segreti che prima o poi tirerai fuori. Ma no, ma guarda, io. Senti, ma tu, Emilio, io sono curioso di una cosa. Ma tu, lo stiamo chiedendo a un po' di persone dopo la proposta di Razzi, tu hai mai usato un preservativo in vita tua? No, io un preservativo mai. 90 anni fa. No, 90 anni fa non c'erano. Non l'hai mai usati? Non l'hai mai usati? Vabbè, ma non c'è niente di male. No, non me ne fregava niente assolutamente. Ma perché? Perché era difficile metterli, perché ti spaventava un po'. Mi toglieva il piacere. Ti toglieva il piacere. Però bisogna dare un consiglio di usarli ai ragazzi di oggi. No, quello è anche vero. Bisogna usarli, profilattici. Mai usati? Comunque anche tu non hai mai usato i profilattici. E a puttane ci sei stato una volta? Scusa, devo rispondere al telefono, posso? Beh, guarda. Devi rispondere al telefono. No, cioè a prostituzione. Siccome noi stiamo facendo questa grande campagna sulla legalizzazione della prostituzione, sono in diretta alla radio. Sei mai stato in un bordello? Ti richiamo. No. Non ho avuto mai bisogno. E non hai mai pagato? Non hai mai pagato per una donna? Non hai mai neanche pagato. Guarda, quando tu l'hai fatto, mi riporti indietro. La mia domanda, ti mai avuto? Quanto hai avuto? Ti hanno offerto per lasciare il TG4? Ho detto no. Non ho voluto, per amore del TG4, lasciarlo e basta, la rotonda. Hai fatto una cazzata. Sì, sì, prendi i soldi e scappa sempre. Prendi i soldi e scappa. Caro direttore, a presto. No, aspetta. Che c'è? Che mi devi dire ancora? Quando ci sarà la verità su quella valigetta e quella lettera anonima. Chi te l'ha messa la valigetta e la lettera? Magari lo sapessi. Ma qualche sospetto ce l'hai? Qualche sospetto? Qualche sospetto ce l'ho. Ma da che parte sta? Dove alberga? Ci porta direttamente a Pechino. A Pechino, sì. Corea. Sì, sì, che sono mica scemo. Vabbè, vedi che i segreti ce li hai. Ciao direttore, a presto. Ciao. Sei ancora a casa, Emo? Le zanzare. Trasmissione sempre la migliore. Ma è davvero così interessante per voi che ascoltate, per il grande popolo della radio, della zanzara, del cosiddetto drive time, cioè di quelli che tornano a casa a sentire l'ennesima disputa, caro Parenzo, tra Renato Brunetta, tra Renatino Brunetta e Matteo Renzi? Anche perché non si capisce quale sia la linea di Forza Italia, no? Cioè, qual è la linea di Forza Italia? Quella di Brunetta? Fino al 10. Casino, dal 10 in poi, cioè dal giorno in cui purtroppo diventeranno esecutivi questi domiciliari o altri servizi stabiliti dalla legge, e da lì poi tutto è aperto, può saltare tutto. Ma non mi pare che la linea per adesso sia quella della guerra, questo... Ma quale guerra? Dov'è la guerra? Ma non è vero, non è vero. Sondaggini un po' in calo. Ma che c'entra la guerra? Ma se non sai, non parlare. Soprattutto oggi ho parlato con fonti attendibilissime. Ma quali fonti attendibili? Comunque, vabbè, sentiamo prima Brunetta, dai. E noi chiediamo a Renzi, se vuole mantenere la parola, se vuole mantenere i patti, di approvare la riforma elettorale prima di Pasqua. Altrimenti casca l'accordo con Berlusconi, con Forza Italia. Renzi, a parte che secondo me se ne fotte totalmente, comunque replica di Renzi. Non accettiamo gli ultimatum di nessuno, men che mai di Renato Brunetta. Se decidono di stare al gioco delle riforme, noi ci siamo. Se vogliono sfidarsi, che lo dicano, noi prenderemo atto. Vabbè, varie eventuali poi. Ludovico da Bologna, buonasera. Ludovico? Pronto? Sì, ma che sta facendo, scusi Ludovico? Cucina. Buonasera. Sta cucinando, è a casa, che sta facendo? Esattamente, no, stavamo per, ma non ancora. Stavate per, ma tu, lei mangia alle 19.37? Poverino. In via eccezionale, sì. Come mai? Perché niente, più tardi ho altri impegni, allora ma perché devi metterlo in croce? Ma non lo sto mettendo in croce, sono curioso. Signor Ludovico da Bologna, ci chiama, sento uno, come dire, cosa un brusio sta facendo da mangiare, di pentole, di piatti e tortellini. Come? Tortelli? Turtel, no, che no, fa no, da mangiare? No, pasta asciuttina? spezzatino alle 7:30, amico mio. Ma c'è la zanzara a tutto volume in casa? No, abbiamo abbassato adesso. Hai abbassato? Figli? Sono distratti? I figli, parolacce, cose, no? No, niente. Niente, vabbè. Cioè, nel senso che c'avete figli o no? Ma lei è sposato? Non ho capito. Avete figli a casa o no? In arrivo, vabbè. Ah, in arrivo, sì. È buono, vabbè. Vabbè, tutto regolare, allora, no? Che vuole dire? Che tutto regolare che vuol dire? Scusa, no, quella... voglio dire... Ma cosa? La gestazione? No, quella non mi permette. Ma io dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Sì, d'accordo, però noi non siamo proprio quelli che si fanno i cazzi loro. Comunque, Ludovico, Parenzo vuole sapere che se la gravidanza di sua moglie, tutto a posto, la sua perché... fidanzata, la sua compagna... No, non quello, sposati, tutto bene, vero? Regolarissimo. Cioè, lei è sposato? Sì, meno male, bene. Conviviamo. Sei anche a favore del peccato, come direbbe il signor Ruggero, quindi del peccato. Ma quale Ruggero? Ruggero, il tuo amico Ruggero. Vabbè, Ludovico, allora? Sì, no, io ho praticamente telefonato rispetto all'apertura, alla dichiarazione che avete fatto sentire di Grillo. Sì. Rispetto all'intervento che avete fatto voi. Allora? Allora non è niente, mi sembra giusto così un po' superficiale l'analisi, nel senso che io non credo che... Ma non c'è nessuna analisi, Ludovico? Si ferma tutto al discorso Tampax. Ma chi ha detto che lavabile. Ma nessuno dice che si ferma tutto al Tampax. Ma potremmo far ascoltare quello che ci pare di Grillo, oppure bisogna far ascoltare 3 ore consecutive per capire qual è la linea di Grillo? Io faccio ascoltare quello che voglio. Durante un comizio, riunione politica, durante un incontro con i cittadini, ha parlato anche dei Tampax, dei pannolini lavabili, della vermicoltura con gli scarti da macelleria e anche il fatto che in America, per esempio, si stampa una casa in 3D o una cosa di questo tipo. In America stampi una casa in 3D, cose di questo tipo. Sentiamo. Adesso le stampanti costano $50,000, sono nei comuni degli Stati Uniti e la gente si stampa le cose di cui ha bisogno. Vai lì, paghi, ti stampi, prendi dalla rete, prendi un file, lo inserisci nella macchina e ti fa gli oggetti, dai più piccoli sino a una casa, a una barca, ti fai gli oggetti. Pensa come cambierà il mondo di mio figlio, di tuo nipote. Pensa alle produzioni delle grandi multinazionali, non ce ne fregherà più niente perché ognuno si produce quello di cui ha bisogno, gratuitamente dalla rete. Vabbè, Ludovico, allora? Sì. No, il discorso era questo. Io pensavo che in pratica non è tanto il problema del Tampax o del pannolino lavabile. Il discorso secondo me era un altro, cioè che bisogna un attimo cercare di uscire dal modo di consumo che abbiamo oggi, cioè di comprare sempre gli ennesimi oggetti per consumarli una volta, due volte, tre volte, a continuare sempre a ricomprare sempre le stesse cose. Sono favorevole al consumismo più sfrenato. Fabio da Modena, buonasera. Fabio. Buonasera. Dica. Senta, io vorrei osservare perché vorrei intervenire in merito alla questione Renzi Brunetta. Chiaramente mi fa sorridere il messaggio di Brunetta, si vede che ha molta paura di non essere eletto, insomma. Vabbè, al di là di tutto però le riforme non ha bisogno di essere eletto da nessuna parte, la vogliono approvare perché si vede che hanno bisogno, insomma, di questa legge elettorale, chiarissimo. Ma al di là di questo, poi dall'altra parte, a me piace poi parlare un po' di tutti, dall'altra parte, dove sono le riforme di Renzi? Dove è pubblicato online sulla Camera il vantaggio, il beneficio sia economico ma anche un vantaggio pratico del cittadino? No, ma su questo, esempio, su questo io sono d'accordo con lei. Sì. Quindi diciamo se sono due buffoni che si scambiano dei messaggi elettorali, le elezioni europee non le ha mai cagate nessuno, adesso sono tutti lì che... Ma le elezioni europee servono solamente come test per la forza di ciascun partito. Esattamente, sono tutti un po' preoccupati. Non gliene frega nulla a nessuno dell'Europa, del Parlamento europeo, di stare lì. Nessuno. Non è vero. Ma invece ai partiti, a Renzi interessa dell'Europa, del Parlamento europeo. Sarà il semestre europeo. Ma non gliene frega niente a nessuno del semestre europeo. Oggi quanto conta l'Europa, andrebbe soppresso il Parlamento europeo. Luigi da Forlì, soppresso domani mattina, soppresso, cancellato con un tratto di penna. Soppresso il Parlamento europeo. Soppresso andrebbe. Ma chi è che parla adesso? Luigi da Forlì. Sì, pronto. Come andiamo? Ma insomma, mica tanto bene ad ascoltare voi due. Spenga la radio, non ci rompe i coglioni allora. No, io vi ascolto da anni, figurati se spengo. Qual è il problema? Poi... meno male, meno male. Io lo dico per provocarla, la dico per provocarla. No, però siete, mi dispiace, però stasera avete banalizzato, cioè voi banalizzate cose molto importanti. E quali sarebbero? I panolini, i Tampax? Ma scusi, dai, su. Ma chi se ne frega dei Tampax e panolini lavabili? È questione che voi state banalizzando una cosa importante come per esempio i rifiuti zero, che voi non sapete probabilmente neanche cosa sono. No, cosa lo sappiamo, sono, no? Lo sappiamo, no, sì, lo sappiamo. No, cosa sa? Non sai niente perché rifiuti zero, sì, banalizzi. Queste cose, la plastica, che... queste robe. Ascolta qui. Ascolta un attimo, ascolta un attimo, Cruciani. I rifiuti zero vuol dire no, sì, inceneritori, no. Vabbè, senti, qui non siamo a un comizio di Grillo. Scusami, no inquinamento, ok? Va bene. Che tu sai benissimo che causa, no, qualsiasi nefandezza, qualsiasi vabbè, malattia. Allora? E allora vuoi tu quell'altro Parenzo banalizza, che non capisce un cazzo, Parenzo banalizza il pannolino, il Tampax, sì, il preservativo. Sì, perché in campagna elettorale si parla di queste cose, secondo te, genio. Beh, anche però questo si può parlare. Si deve parlare. Si può parlare di questo. Si può parlare anche di rifiuti zero, si può parlare. Certamente non del Tampax. Certamente non del Tampax. Certo, questo rifiuti sì. Zero, certo. Si può parlare, ma no, a parte che... Non parlate, Cruciani, di rifiuti zero, cioè Parenzo, di rifiuti zero, che come tutti quelli della tua parte politica, capito? Ragionate solo ad incenerire. Non so quale sia la mia parte politica. Non so quale sia la mia parte politica. Dopodiché, fino a quando non c'è un'alternativa, sì inceneritori, sì inceneritori, altimenti i rifiuti li portiamo a casa tua e di Beppe anche. E di Beppe. Non sai dove devi venire. Devi venire a Forlì, dove di inceneritori ce ne abbiamo due. No, uno, due. Toglieteli. Fino a quando non c'è una soluzione alternativa, prova a chiudere un inceneritore, no, vediamo, intanto e vediamo la tua casa piena di monnezza. Intanto Parenzo. A Parma, Luigi, a Parma la battaglia mi sembra che non sia andata molto bene a Parma. Bravo. Lì la grande battaglia contro l'inceneritore. Dov'è finita la grandissima battaglia contro l'inceneritore? Esatto, che ormai è tutto finito. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Allora ragazzi, a quelli che ancora continuano a rompermi i coglioni sulla questione del Sud, sì, no, lo dico molto chiaramente, sulla questione del Sud, che ogni tanto critico alcuni atteggiamenti da parte delle classi dirigenti e da parte di ascoltatori che ci chiamano dal Sud Italia, beh, vorrei far presente alcuni dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate, non dalla Zanzara, non dai secessionisti veneti. Ieri, sì, sì. Le zone a rischio, sì. Le zone a rischio evasione fiscale. Allora, in rosso, alta pericolosità fiscale. Calabria, gran parte della Puglia, gran parte della Campania, basso Lazio, mezza Sicilia. Rischio di evasione medio alta, tutto il resto del sud. Lei lo sa, ma sa aspettare. Passiamo al nord. Pericolosità fiscale bassa. Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, metà Piemonte. Questa è la realtà. Alta pericolosità fiscale, quasi tutto il sud. Pericolosità fiscale bassa, praticamente tutto il nord. Per via della criminalità, però. Lascia perdere, è così. Lascia perdere. Devi dirla tutta, perché zone a rischio è questa, dai. Ma al sud c'è una cosetta che si chiama criminalità organizzata. Ma intanto questi sono i dati, questa è la cosa detta dall'Agenzia delle Entrate. Una cosetta che si chiama criminalità organizzata. Oh, sono molto contento di avere di nuovo tra noi qui alla Zanzara Lele Mora, buonasera. Molto bene. Buonasera. Come buonasera, stai, carissimo? Come... Ciao Lele, bene, come stai? Bene, voi come state? Beh, avanti. ti sento abbastanza bene, una voce abbastanza squillante, no? Molto sereno, molto felice. Sono in affidamento, come ben sapete, da mio figlio che mi... Come in affidamento da tuo figlio, beh, scusa, non sei da... Sono in affidamento da mio figlio e in sociale da Don Mazzi. Ah, vabbè, affidamento da tuo figlio da che punto di vista? Mica formale. Sì, no, formalissimo. Ah, formalmente sei in affidamento. 1200 euro al mese. E come fai a campare? Come fai a campare con questi soldi? Uno che vuole può campare sia con i 1200 come i 100 come i 100 milioni di euro. Dipende dalla vita. Una volta facevo la bella vita, oggi faccio la vita ritirata. Vado nel tiro spirituale alle 11 di sera, vado a letto. Ma come ritiro spirituale, scusa? Vado in ritiro spirituale perché fa bene, pregare fa bene, dire il rosario fa bene. Comportarsi bene fa bene. Ho goduto tanto nella mia vita, ho buttato via tanto, ho dato perle ai porci, adesso le perle non le ho, non le do più a nessuno. Però lei, qualcuno dice ogni tanto, leggo degli articoli, poi manco ci faccio caso, che tu comunque hai ancora questa ambizione di tornare a proporre dei programmi, recluti o forse tenti di reclutare dei personaggi per programmi televisivi, tornare alla vecchia vita. Dimmi la verità, senti un po' questa cosa ancora oppure no? Non me ne può fregare di meno. Sai come sto bene non avere più artisti che mi rompono, scusa il termine, le palle di giorno e di notte. Adesso arrivo a casa alle 10:30 di sera, perché è obbligo, e l'obbligo lo rispetto, perché piuttosto di essere a opera preferisco di essere in affidamento. Sì. E gli artisti stanno bene per conto loro. Che facciano gli agenti, tutti i miei autisti che sono usciti dal mio garage, che ormai sono tutti manager, tutti grandi professionisti, che di management non ne capiscono niente, rovinano gli artisti non ci sono più, più i manager di una volta, diciamo la verità. Diciamo che l'Elemora ha lasciato molti orfani, e gli orfani quando non hanno più il padre vuol dire che il padre è morto. Io faccio conto del mio lavoro di essere morto, non me ne frega più niente. Ma quanta gente hai fatto diventare ricca? Dimmi quello che è diventato più ricco con te. Quello che è diventato più ricco con te. Tanti, non facciamo i nomi. Costantino è diventato ricco con te. Dopo ti ha tradito. Ma non sono tradimenti. Quando uno crede di essere, un giorno è entrato nel mio ufficio, mi ha detto: tu sei un agente finito, non sei più capace di fare questo lavoro. Sì. Costantino è più bravo di te, mi gestisco da solo, farò di più. L'hai più visto tu da quel giorno? Si parla del 2008. Ma no, io non seguo Costantino molto, come puoi immaginare. Però io non lo guardo più. Non mi interessa. Senti, carissimo, ma che succede? Tu dici il ritiro spirituale, pregare serve, eccetera. Hai ritrovato anche la fede, immagino. No, la fede ce l'ho sempre. Io vado a messa tutte le domeniche. E la mia comunione, la mia confessione me la faccio tutte le domeniche da quando sono nato, educazione che mi è stata data dai miei cari genitori, nulla di più. Senti, ma poi bisognava conciliare questa fede anche con i comportamenti, bisogna dire la verità. Guardami, tu mi hai conosciuto da non tanto tempo, io sono sempre stato il Lel di una volta, poi che mi sia fatto massaggiare i piedi, perché amo la riflessologia. Anche leccare forse. No, i piedi non sono leccare. Feticista, non mi faccio leccare. Non ti piacciono? Mai piaciuto? No, preferisco farmi leccare qualcos'altro. Io invece i piedi, guarda, io invece sono fisso. Sai che se devo scegliere tra i piedi e qualcos'altro, scelgo i piedi io. Caro Lele, ti devo fare questo. Non mi eccitano. Non ti eccitano, invece quando ti succhiavano, Non mi eccita più nessun altro, perché con le pastiglie che prendo per la depressione non mi tira più neanche l'elastico delle mutande quando gli ho strette. Ma veramente stai dicendo? Ma te lo giuro. Ma è tremenda questa cosa, però. Perché io sono 3 anni che non faccio sesso e non ho orgasmo. 3 anni. Però possono darmi la soluzione, la comunione. Però questa roba qui, scusa Lele, la vivi come una cosa drammatica, tragica, oppure come? Assolutamente no. Pensa a soldi che risparmio. Non mi innamoro più, non me ne frega più niente. Vabbè, risparmi non soldi. Non devo dare niente a nessuno. Perché pagavi? Perché prima pagavi, dici? Ma sai, ogni tanto pagavi, dai. In un modo o in un altro si è sempre. Anche tu, caro mio, grande, meraviglioso. Bene o male, quando tu inviti fuori una signora per bene, bella, che non sia, brutta che sia, una cena gliela offri, questo vuol dire pagare. Paga in un modo, paga in un altro, o galanteria o pagheria. Tu pagavi un po' di più, diciamo. Ma io mi sono innamorato una volta nella mia vita, diciamo che ho buttato via un capitale, ma non lo rinnego. Fai bene a non rinnegarlo. Però dice ho cambiato vita, questo. Fai bene a non rinnegarlo. E ho cambiato vita, e sono felice di aver cambiato vita, e sono felice di avermi dato al sociale. Ma io che devo fare secondo te? Devo cambiare vita secondo te? Sì, devi venire a zappare con me, devi venire alla domenica alla bancarella che ho io di Don Mazzi in Piazzale Cuoco a vendere le magliette. Bello. Devi venire a farti i bagni di folla dove senti che la gente ti dice: ma l'Elemora, avevi soldi? Sei qua che vendi alle bancarelle dei viados, dei marocchini. Sì, ho visto le foto. Popolo è popolo, ricordiamoci, che sia di destra che di sinistra, sempre popolo è, sempre gente non che devo ti ama. Non devo pensare a farmi leccare i piedi, dici tu. No, tesoro. Ti devi convertire, hai ragione. No, non c'è bisogno di convertirsi, no, basta aiutare bisogno. Chi ne ha bisogno, che è la cosa più bella. Figurati se Cruciani ma... aiuta chi ha bisogno. Ma Berlusconi avrebbe bisogno di un bagno di umiltà come stai facendo tu, secondo te o no? Berlusconi non lo si tocca, Berlusconi è sempre un grande, è sempre il numero uno, l'hanno torturato, lo stanno torturando, lo vogliono umiliare, lo stanno umiliando, gli faranno fare gli arresti domiciliari, non gli daranno secondo me neanche l'affidamento, perché umiliare uno come Berlusconi è gioia per chi prova a umiliarlo. Cioè tu dici ma che gli daranno gli arresti domiciliari e non la... Secondo me sì, guarda, questo è il mio sentore, ma io ti dico una cosa. Sai che anche io ho pensato ieri questa cosa, che i magistrati quando possono inferire, inferiscono. E secondo me non in questa... voglio parlare dei magistrati, i magistrati stanno là bene dove sono, parlo di me, parlo di Berlusconi. Berlusconi è un grande uomo, è un grande signore, vabbè, è questo... un gentiluomo. Sì. E lo vogliono umiliare fino alla fine, ma sì, ricordiamoci che è sempre Berlusconi. Lo so, però, sai, e rimarrà anche se lo mettono agli arresti domiciliari il signor Silvio Berlusconi. Vabbè, questo non c'è dubbio, nessuno. Ma senti, ma tu hai qualche simpatia per Renzi, però? Mi sembra... Renzi mi è molto simpatico, te l'ho detto già la prima volta sono venuto da te. No, ma altre una, io voglio che tu lo ripeta, perché alla luce di quello che sta facendo, dei primi provvedimenti di governo, eccetera, continua a starti simpatico? Mi sta simpaticissimo. L'altro giorno quando io ero in comunità è venuto Grasso, il capo del Senato, i giornalisti mi chiedevano Grasso o sì, Renzi. Io sai cosa ho detto? Che hai detto? Metterei Don Mazzi, perché Don Mazzi è un grande uomo, un grande prete, è uno che sa fare delle cose belle. Ma in questo... Don Mazzi, sì, pochi lo sanno, sta cercando di far chiudere, sì, le carceri minorili e trasformare le sue comunità in case famiglia, in case della gioventù. Vabbè, questo lo sappiamo, Don Mazzi l'abbiamo intervistato anche recentemente. Ti chiederò dopo la pubblicità se pensi che quali sono i punti in comune tra Renzi e Berlusconi, perché non è che sei una persona così, non è che fai solo la gente, tu sei una persona che osserva gli uomini, li sa capire, sa quali sono anche i loro difetti, i loro punti deboli. Ma c'è un signore che mi dice: riascoltati, vergognati, quando hai detto io sono per il consumismo più sfrenato. È vero, l'ho detto, ma lo rivendico, sì, anche se non lo pratico. Io non lo pratico il consumismo più sfrenato, non l'ho mai praticato in tutto sobrio. Dopodiché tutti parlano dei consumi che devono riprendere e il consumismo non va bene? Ma magari ci fosse il consumismo più sfrenato. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh. Vai su. Ma vogliamo dire pubblicamente che si devono vergognare, hanno chiesto scusa, quei signori dei 5 Stelle di Lecce, caro Parenzo. Lo sai che cosa hanno fatto? No, né mi interessa. Ma che ne sai tu? Ma non leggi niente come ormai al solito. Ormai è Radio 5 Stelle questa qua. Ma quando mai? Quale Radio possono 5 chiudere, Stelle? Non dire possono stupidaggini. Chiudere, mandarà può chiudere. Mora, cosa bisogna fare quando il tuo compagno di viaggio studia poco, approfondisce poco, eccetera? Mandarlo via a calci nel sedere oppure... No, perdonarlo sempre. Sempre, no, ma poi anche dargli degli input perché capisca cosa deve fare. Una carezza, magari, una carezza. No, ma qual è carezza da te? Una carezza, assolutamente. Allora, poi, aspetta. Poi è assurdo che fai la cronaca di queste stupidaggini nel giorno dei 90 anni di Scalfari, guarda. No, io voglio soprassedere i 90 anni di Scalfari, guarda, veramente non me ne importa nulla, l'ho detto con tutto rispetto. Allora, i signori dei 5 Stelle di Lecce cosa hanno fatto? Un manifesto online su un consigliere regionale di SEL, credo, o del Partito Democratico, anzi del Partito Democratico, si chiama, Guglielmo Minervini si chiama, 53 anni, così c'è scritto nel loro manifesto dei 5 Stelle di Lecce, è residente a Molfetta, provincia di Bari, eletto col Partito Democratico, stipendio 9.800 al mese circa, così hanno scritto, scomparso dal 29 marzo 2010, ma non scomparso perché è morto, scomparso dal Consiglio regionale, cronico assenteista, così scrivono. Lo sai che cosa aveva questo signore? Che aveva? Un cancro, capito? Aveva un cancro, ma è proprio gente assente per tumore. I grillini hanno scritto: chi l'ha visto? Vergogna, vergognatevi di queste cose. Almeno controllate prima, meno male, bravo, prima di pubblicare queste cose. Dai, su, controllate. Abbiamo con noi Lele Mora, che sta facendo i servizi sociali, come ci ha detto. Ecco, chi ha fatto questo manifesto? È Gentaglia o no, ad esempio, per tornare sul tema? No, ma dillo. Non sto dicendo. È gentaglia, è gentaglia. Ma Grillo, parlare, Grillo che cos'è secondo te? Lele? Chi ha fatto comico, il manifesto? È un grande comico, deve fare il comico Grillo, non deve, non possiamo avere un comico che governa l'Italia. I comici devono fare la comicità, sì. I comici sono tutti di sinistra, io non ho niente con quelli di sinistra, ma i comici fanno ridere, che facciano quello sul loro. Ma tu non hai mai fatto qualcosa per... Io non ho mai lavorato con un comico, con perché un... mi stanno sui coglioni. Perché ti stanno sui coglioni i comici? Perché sono tutti tristi. Fanno ridere solo quando sono sul palcoscenico. Ma pure Grillo? Pure Grillo, dice solo delle verità a modo suo, dovrebbe dire delle verità vere. Senti, ma non hai mai fatto la gente con Grillo, eccetera? Non hai mai avuto a che fare dal punto di vista professionale? Io lavoro con chi non mi piace. Per mia scelta ho sempre lavorato con persone, prima di tutto, io ho sempre fatto crescere della gente, non ho mai preso gente affermata. Ho tirato sui giovani, ho fatto lavorare i giovani, forse che non avevano... cultura, che non avevano talento, che non avevano arte, che non avevano né parte né arte, metti tutto quello che vuoi, li ho arricchiti, ho sbagliato, forse, ma era in un momento che la televisione... Ma il più grande errore che hai fatto con una persona, con un artista, qual è stato? Con chi? Il più grande errore che hai fatto, dimmi la verità. Dare perle ai porci, ne ho già date tante, se i nomi li ridò pubblicità, domani lo richiamano a qualche programma a dire cosa con te le mora, stai in giro a sentire quello che dicono, ho avuto mille amanti, ma ha detto con qualcuno non ci sono mai andato, hai capito? Ho avuto solo cose storie, storie serie, eccetera. Ma tu voterai all'europeo o no, ad esempio? No, non io può, non voto, non può votare. In non Italia, può. Prima adesso sono stato interdetto dai pubblici. Non può votare. Sì, ma cosa voteresti se potessi esercitare? Voterei Renzi, ve l'ho detto dall'ultima volta. No, che ne so, magari no, magari cambiato. Ma non ci penso nemmeno. Renzi è un giovane, è uno che ha delle belle idee, è uno che sa fare delle grandi cose e farà vedere, le farà. Quindi, poi, ma in che cosa è simile non a Berlusconi? Forza Italia, però questo in che cosa è simile a Berlusconi? Ma cosa sono simili a Berlusconi? Qualcosa sono ci due sarà. Uomini grintosi, due uomini all'attacco, due uomini che hanno voglia di portare a termine delle promesse che hanno fatto, come ha fatto Berlusconi, ne ha promesse tante, ma la maggior parte le ha portate a termine, qualcuna purtroppo non ci è riuscito. Comunque secondo me si prenderà tutti i voti di Forza Italia, Renzi, prima o poi. Ma non credo. Io spero che tutte queste cose di Berlusconi vadano a finire bene. Ma è vero che c'ha il cerchio magico o no Berlusconi? La signora Pascale intorno, tu che ti intendi? Ma no, guarda, queste cose io non le so, non le voglio sapere. La Pascale per me è una donna come tante altre, cioè? Magari un po' più bella, magari ha un cagnino che è simpatico, un cagnolino, è napoletana verace, ma... È una come tante altre, non spicca, diciamo, non... Ma non voglio criticare chi non conosco, io non la conosco, come non conoscevo. Però secondo te Berlusconi ha delle remore su... diciamo che qualche errore l'ha fatto anche lui, come tutti i grandi, come tutti i potenti. Quando uno che errore ha fatto, potente, per esempio? Ma cercarsi di qualche persona sbagliata, può darsi che anch'io fossi stata una persona sbagliata, un amico sbagliato, ma un amico che... Un amico, ricordati una cosa, ti do del tu perché abbiamo amicizia, mio caro. Certo. Perché... Gli amici te li scegli, non sono come i bottoni, non te li attacchi. E io Berlusconi ero felice, sognavo di averlo come amico e sono stato amico, lo sono ancora e spero di esserlo sempre. Da quanto tempo non lo senti? Vabbè, dai. Da quando? Processi, cose. No, era gennaio l'ultima volta, 2010, 7 gennaio l'ultima volta che sono andato da lui, gli ho regalato una bicicletta, gli ho portato una bicicletta che gli aveva fatto un mio amico e gliel'ha regalata. Basta. Io augurerei a Berlusconi che diventasse presidente della Repubblica. Non può succedere. Speriamo avvenga, magari. Non può succedere ormai. Succedono tante cose nella vita. Non può succedere. Ma scusami, caro Lele. Renzi, che rimanga presidente del Consiglio quello che è per 10 anni, che faccia tutto quello che ha promesso, che svuota le carceri che devono essere svuotate, che cambi le leggi, che faccia tutto. Ma scusa, Lele, ma tu per una curiosità, ma tu quando hai scoperto, per esempio, di essere omosessuale? Io non sono un omosessuale, bisex. sono bisex. Sai come succede nella vita? Sì. A me certe cose non mi piacciono anche se vado con gli uomini, hai capito? E cerco di intenderlo, siamo in un orario particolare. No, ma che orario? Qui alla Zanzara si può dire di tutto. Si può dire di tutto, va buono. Allora, non faccio sesso in un certo modo neanche nell'altro, cioè non lo do e non lo prendo. L'unica cosa, a me piace essere... servito e riverito. Se trovo che è bravo fa andare nel paese di Bombolandia, accettiamo nel paese di Bombolandia. Hai già capito tutto? Ho capito questa tutto, sì. Il paese di nulla Bombolandia, di abbiamo capito il paese di Bombolandia. Però tu mi stai dicendo che da 3 anni manco quello. Quello mi ha colpito manco moltissimo. Quello. Mi ha colpito manco moltissimo. Mi si arriccia. Se devo tirarlo fuori, a volte mi serve lo stuzzicadente. Mamma mia, che tragedia. Perché dobbiamo parlare di è questo? È una tragedia, però è così. No, però è così. E dalla voce che hai, l'hai anche accettato, devo dire la verità. L'ho accettato, certo, perché ma voglio guarire, sono... voglio guarire. Tasse a, a te Cruciale, cosa faresti? Sono stati farmaci? Che sono stati farmaci? I farmaci. La depressione ti uccide anche sessualmente. Mamma mia. Perché ti dà la forza, la grinta di andare avanti, di guardare avanti, di essere sereno, di essere felice, di essere allegro, sì. Però ti inibisce dal sesso. Ma non, oggi non mi manca il sesso, credimi. No, cosa che ti credo. Ti preoccupa l'appello che è stato fissato il 15 luglio oggi, mi sembra? Ti preoccupa o no? No, non mi preoccupa. Tornare in carcere che... sarebbe un dramma, però, diciamo. Sarebbe un dramma perché non me lo merito, perché non ho fatto niente di male. Ma come si fa a dire che Lele More è un puttaniere? Dai, su, è un puttaniere. Uno che portava, che è un... di che cosa sei stato accusato? Procacciatore? Procacciatore, dai. Guarda, l'ho già detto. Se tutte queste, una volta, come dice la legge Merlin, erano delle prostitute che oggi non sono più prostitute ma sono escort, allora andavano ad Arcore, che non era una casa di tolleranza, se le trombava, se era così come dicono, sì, forse non si è mai saputo, erano diventavano delle escort, ma per essere escort o prostitute bisogna avere più di un cliente, ma ce n'era uno solo che era Silvio Berlusconi. Se fosse stato così. Allora è un amante, non è un... Ma poi diciamo la verità, era in grado di farlo secondo te, di andare... Ma quello non lo so, io non sono mai andato a vedere se Berlusconi ritira o non ritira, questi sono affari suoi, se li funziona ben venga, ma un signore per bene che è stato operato dalla prostata non credo che avesse bisogno di fare queste cose e non aveva certo bisogno di l'elemora per avere... Per procurarsi delle donne. Si sarebbe e si sarà... sempre arrangiato da solo, è un uomo talmente per bene, talmente potente, sì, talmente generoso che certo non aveva bisogno di me. Vabbè, caro Lele, per esempio quella sei ancora un po' fascista come hai detto una volta oppure no? Io non sono fascista, tu ti sbagli, vedi che Mussoliniano. Io sono Mussoliniano, vedi che mi sono corretto Mussolini subito. Mussolini ha dato delle belle cose, ne ha fatte anche di brutte, ma ne ha fatte anche tante di belle. Che per esempio che cose belle ha fatto, signor Ma Musso? Guarda qua a Milano, abbiamo la stazione centrale, solo da lì dovremmo inchinarsi a un uomo del genere. Inchinarsi, ha fatto, sì. Poi non voglio star qua a discutere cose che ho già detto. No, detto. Per carità, no. No, volevo dico solo, ero curioso, il dico. Commento che io faccio tra Berlusconi e Renzi, sono due grandi uomini. Due persone per bene, spero che Renzi mantenga tutti gli impegni e le promesse che ha fatto assolutamente e che dire, ma che prima o poi ti riconcilierai con Emilio Fede oppure no, oppure è impossibile, ma ormai io l'ho sempre salutato Emilio però Fede, però ormai è impossibile che ti riconcili con Fede, ma no, ma io l'ho sempre salutato, se poi lui è arrabbiato con me perché ho detto la verità non è certo colpa mia, è arrabbiato, io questo anziano signore che rispetto, anziano, grande giornalista, sì, non puoi non essere gentile ed educato quando lo incontri, lo saluti, ti chiede come sta, poi se lui ce l'ha con me perché ho detto la verità mi dispiace, nulla di più. Comunque questo cerchio magico alla fine esiste, questo cerchio magico intorno a Berlusconi, come la Pascale, questi lo tengono un po' prigioniero, esiste? No, ma non esistono cerchi magici, come quando facevano i cerchi magici di Bossi. Beh, non quello esisteva. Ma no. Dici di no, Bisogna poi girarci tutto bene intorno, il cerchio magico... è un'altra cosa. Senti, si parla molto, Lele, per chiudere, poi ti lascio, la Lega propone delle cose di legalizzazione della prostituzione, tu le faresti le case chiuse? Sì, assolutamente sì, io le farei, perché lasciare tutte queste povere ragazze per strada che vengono a volte uccise, vengono trattate male, c'è delle grandi malattie, bisogna riaprire le case di tolleranza, rifare i vecchi casini, uno che ha voglia di andare a puttane va, se vuole le paga, se non ha voglia non ci va. Questo è se ci fossero state quelle pure dove potevano andare gli uomini, tu ci saresti andato là, no? Subito. Ma se c'era qualcosa che mi piaceva, perché no? Mica sono un moralista. Ma figuriamoci. Mora sì. Ciao Lele, a presto, ciao. Ciao Giuseppe, ciao a tutti e due, un abbraccione. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Devo dire che non mi eccita più nessun altro, perché con le pastiglie che prendo per la depressione non mi tira più neanche l'elastico delle mutande. Gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi so. ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist, e balli su twist. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Eccoci qui, Renato Cuneo. Renato da Cuneo. Renato Curcio? No, Renato da Cuneo. No, Renato Curcio. Ma sarebbe Renato bello per avere Renato Curcio. Parenzo, dimmi, Renatino. Io ti dico una cosa di cuore. Dimmi, Renato. Incarni per me quel perbenismo nauseante, quell'intellettualismo autoreferenziale. Sì. Penso, io sono di sinistra e preferisco Cruciani. Sì. È Renato? No, ha ragione Renato. Renato? Fallo parlare. Regia fallo di Milano, parlare. Renato? Renato? David? Sì. Cruciani non ha paura del cambiamento. Esatto. È lontano anni luce dalle mie idee, ma tu hai paura, sei un pavido. E quindi sei incerto. Pavido lo dici alla tua famiglia intanto? Pavido, semplicemente o ai tuoi pavido, amici. No, la mia famiglia, alcuni pavido, magari sono proprio, fuori di proprio di niente, caro. Perché Parenzo, quel che penso dico, ma senza il perbenismo, mi ha detto con buon tono. Ma quando certo. Si tratta di randellare, randello, hai capito? Ma io non ti randello, ti dico che sono pavido. No, lui randella. Perché pavido? Randello, Renato, io quando sei da, perché da, pavido? Perché ha paura di cambiare. Lui è ingessato. Di cambiare cosa? Cosa vuoi cambiare? Con chi? L'Italia, Parenzo, con i 5 Stelle, guarda, con che cosa guarda, vuoi cambiare l'Italia, Renato? Guarda, io con 5 Renato. Stelle non c'entro nulla. E allora che cosa? Allora devi uscire da quell'autoreferenzialismo, quel ma di cosa parli in concreto, Renatino? Sturati, fatti chiarezza nel cervello, fatti chiarezza nella testa, dimmi una cosa, cosa vuoi cambiare? Parenzo. Cosa allora, vuoi? Cosa dimmi. Voglio cambiare? Voglio cambiare il futuro per quei ventenni che ti ascoltano. Bravo. E dicono vabbè, me ne levo dai coglioni, perché cosa devo fare? Votare Renzi? Ma chi ti ha detto, chi ti ha detto che io voto Renzi? Beh, chi sì, sei diventato molto renziano, dai. Chi te l'ha detto a te? Sei diventato ma molto chi renziano, chi te l'ha detto dai. A te? Chi dai. Te l'ha, allora, chi cosa l'ha detto? Cosa voterai le come le mora, dai. Io ho votato PD in passato. Ma voterai per il PD pure alle europee, dillo. Ho votato radicale, spesso, rosa del voterai pugno. Voterai PD anche alle europee, alle europee. Forza, dai, mi fai dillo. Dire a me o no? Dillo chiaramente. Alle europee, alle europee. Tanto oggi hanno presentato, ci sono, quanti simboli hanno presentato oggi, li verranno accettati? Questo ma l'hai non visto? Lo so. Hai visto? Ma chi se ne frega? Mi interessa perché io non è detto che voti partito. Io probabilmente, te lo dico oggi, voterò, credo, però non è sicuro, sì, Partito Democratico, ecco, e in particolare siccome risiedo a Roma, sì, credo che voterò Chiang. No, Chiang non puoi perché si presenta al centro, non scuola al centro, da un'altra parte. Al centro? No, in Emilia sta al centro, ma manco non sai nemmeno questo. No, dovrebbe presentarsi Massimo anche Massimo da Bergamo, dai, fammi sentire Massimo da vedrò Bergamo. Vedrò chi sono quelli candidati. Vabbè, comunque voti PD, l'hai detto, Massimo credo, da Bergamo, dai. Credo, credo, non ho deciso voti ancora PD, dai, su. Pronto? Sì, ma Massimo, se te lo dico, se cambio te lo dico, certo, non ho problemi. Mi senti? Sì, ti sento? Pronti? Ciao, ascolta Cruciani, ma una curiosità, ma tu ti definisci un giornalista, come dire, obiettivo? No, guarda Massimo, guarda, se attacchi così con me, duriamo ma poco. Scusa, ma perché continui a intervistare sempre l'Emilio Fido, che secondo me si chiama Emilio Fido? Benissimo, vecchia, è molto vecchia questa qua, questa battuta Emilio vecchia. Fido, è vecchia, sì, vecchia, finita, morta, come Fede comunque, probabilmente. Comunque, parliamo di un argomento sicuramente serio. È più vivo di te, Fede, guarda, è più vivo di tu te. Dici? Secondo dici, me sì, molto più vivo di te. È campione di una bruttezza immane, vabbè, sì, comunque, sì. Oltre a essere ovviamente poco obiettivo. E comunque i giornalisti obiettivi non esistono, non, proprio sulla faccia della terra non esistono, capito? Comunque la zanzara me l'aspettavo un po' più pungente, sì. Volevo dire una semplice cosa. E allora cambia, non ci rompere i coglioni se è così, Massimo, no, ma dai, no, forza. Probabilmente cambierò. Bravo. E ecco. Sai cosa ti dico? Guarda, sì. Sinceramente, andate a cagare tutti, io da domani cambio canale, vaffanculo. Bravo, bravo, bravo. Giuseppe dalla provincia di Bari, stupendo. Giuseppe da domani, di Bari. Da adesso? Adesso lo richiamo. Pronto? Giuseppe provincia di Bari, sì, dimmi. Sì. Pronto? Vai. E mi sono visto mi sto vedendo la Juve senza voce e per ascoltare la zanzara. 2-0 Giuseppe, siamo tranquilli, siamo sereni, siamo sereni per il fortuna. Il solito culetto. Io sono sereno, io sono sereno. Vabbè, poi andiamo avanti Giuseppe. Vabbè. E niente, volevo dire che la sorpresa finale l'avremo dopo le europee. Cioè in che senso? Quale? E che ci sarà una berluscoppolata. Cioè prenderà una bella scoppola elettorale, dici tu, no? Ma di quelle grandiose, le spiego pure perché. Vabbè, perché ma tutti quanti dicono che andrà sotto il 20%. No. Se per caso mettono il suo nome o la sua faccia sulle schede, sulle schede. Tutti gli ex, i cattolici che hanno votato sempre Berlusconi, eccetera, eccetera, per amor patrio, voteranno o Renzi o il centrodestra. Forza Italia per me dimezzerà. Vabbè, tutte queste cazzate che vanno dicendo caro, adesso, caro Mannheimer, Giuseppe come te, sì, Giuseppe come te. Ho capito, però mi fai dire una cosa che chiudo veloce, che chiudi, che non ha detto il mai nessuno. Problema, il problema dell'Italia è questo: se nasce il partito, che dico io, vale, e qual è? Qual è il partito? 10 ore di spietramento al giorno tolgono il crimine e i corrotti di torno. Come 10? Com'è che hai detto? 10 ore di spietramento. Ah, 10 ore di spaccare le pietre al giorno, dici. È vero, questo nessuno l'ha detto. Tolgono il crimine di torno. Cioè, secondo te bisogna mettere il coso, bisogna spaccare le pietre. Esattamente, cioè. E chi non le spacca la mela la sera non l'avrà. Scusami, ci sarà un motivo se nessuno fino ad oggi carcerarie. No, ecco, voglio dire, ci sarà un motivo se nessuno fino ad oggi ha detto questa cosa innovativa, no? Forse un motivo c'è. Spaccare le pietre. Bene, Franco dalla provincia di Alessandria. Buonasera. Pronto? Franco, mitico, come stai? Bene. Che è successo? Che stai facendo? Sto guidando. Professore? Chi è? È la Zanzara, dove stai? Sono in macchina, dimmi, bellissimo. Che stai a fare in macchina? In macchina, ma non guidi tu? No, io non guido, no. Che c'è l'autista, professore? Certo. Certamente, perché mi pare logico, non sono assolutamente mai stato interessato alla guida di auto da quando sono nato. Ma scusami un attimo, perché hai un autista per muoverti per dappertutto? Ma perché c'è un autista? Non ho capito. Perché me lo pago, qual è il problema? Beh, ma io penso che prima c'avevi una scorta, però, ancora c'è la scorta? No, non ho avuto più niente, assolutamente. Da quando che non c'è? Un po' di tempo, adesso sarà un annetto, non so. Ma com'è che giri con l'autista, scusa? Mica le persone normali mica girano con l'autista. Ma certo, io non sono una persona normale, primo. Secondo, la mia attività è talmente frenetica e remunerativa, molti impegni, per cui è anche remunerativa, diciamo la verità. Ma certamente mica sono morto di fame, evidente. Non ho capito. Mica non come noi, certo. Mica come noi, mica come noi che siamo due morti. E quindi scusami, un autista a disposizione tutti i giorni, da lunedì alla domenica. Beh, certo, perché cioè fisso, ma quanto cazzo costa un autista? Ma dove vivete? In mezzo al deserto, non so. Ma non è che le volte come volesse, no, invece di dire che molti se hanno gli stessi servizi sfruttando lo Stato e sfruttando le nostre tasse, ci sono cittadini italiani come me che se lo fanno per conto loro. Per una vita hai avuto la scorta. E danno lavoro, quello è vero. Dai lavoro, diciamo, agli autisti. Però è caro, un servizio carissimo. È un servizio carissimo. E che tanto che te frega? Quello che Io sono ricco. Dici, no? No, io sono un lavoratore normale che ha a disposizione la possibilità di vivere agiatamente. Quante case c'hai di proprietà? Un sacco di case. No, io non c'ho niente. Ma come no? Case in Sono totalmente tutte intestate figli, No, assolutamente, sono nulla tenente. Ma che nulla tenente, tutto quello che guadagno me lo mangio. Ma veramente stai dicendo? Parola d'onore. E come fai a mangiarti tutto? Ma fai una vita ritirata, Vabbè, ma se le vite ritirate sono fatte di vizi, di c'è il cuoco a casa, il cuoco. Sono fatte di vizi, sono fatte di beneficenza che io faccio in grandissima quantità. Ma c'è pure il cuoco a casa? Sì, cuoca, domestici. Cuoca, pure il cuoco a casa? No, dai, su. Io do lavoro a 7-8 persone, per cui questo mi pare. Lei vive benissimo. Ma dopo una giornata, scusami, devo dire che vivo male. Certo, no, vive benissimo. Ma Cruciani, ma scusa, dopo una giornata di lavoro, processi, cose, incontra criminali, tornerà a casa, avrà diritto di fare quello che gli pare con i cuochi, la servitù. Ma scusami. Ma vabbè, ma Cruciani ormai è diventato un sovietico, per cui ma figuriamoci. Servitù. Ma io sono cuochi. A favore, al contrario, io sono assolutamente a favore del consumo. consumismo. Ma non la chiami servitù, però. Ma io non faccio consumismo, perché io sono anche una persona moralmente ben impostata, nel senso certo che c'è anche una forma di sobrietà nel mio per esempio i soldi, la mia vita certo. in modo tale da poter fare del bene al prossimo. Cioè, per esempio, soldi per puttane mai? Tanto per no, essere quelli via. No, quelli non ho mai spesi, non ho avuto mai bisogno, grazie a Dio. Meno male. Di spenderli. Meno male. Comunque, qui, professore... Altra cosa è se ci sia andato o non ci sia andato. Però non quello sei andato. Sei andato. Allora sei andato. Perché tu non ci sei andato? Confessi che sei andato, allora. Confessi. No, non è che confesso. Con piacere dico che sono stati anche quelli i momenti belli della mia vita. Ah, ma una volta dici tu, una volta. Vabbè, ormai che dove vado ormai. E che ne so, dove ma vai, che porcheria. Che domani quando mi capita, Quando ti capita, ormai poca roba, dici. Poca... Ma no, sì, poca roba ormai. Comunque, ormai guarda, professore, il problema fondamentale di cui tutti parlano in queste ore, anche sui social network, sui siti, eccetera, è la, come dire, noi lo sapevamo già, perché solo quelli che non conoscono il professor Taormina potevano dubitare, è questa dichiarazione di voto, diciamo così, nei confronti di Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace, ma ormai ho proprio svoltato, proprio sono convinto di quello che faccio e tutti i giorni ho promesso di mandare un tweet proprio per raccomandare a tutti i delusi forzisti di votare per Beppe Grillo. Addirittura, Berlusconi, ma quello non Berlusconi, ti vuole. Berlusconi, ma che me ne frega, io voglio andare da nessuna parte. Berlusconi ci ha promesso la rivoluzione, non l'ha fatta. Grillo ce la promette, tutti quelli che sono in odore di rivoluzione a me vanno bene. Cioè, ma la rivoluzione che intendi tu? Cioè, per chiudere abbattere tutto. Ma Grillo non vuole mantenere il Senato, per esempio. Ma no, ma non è così. Ma come non è così? Vuole tenere il Senato perché dice che è una garanzia. Non vuole fare questo tipo di porcheria che stanno facendo. Se tu levi il Senato e metti metà degli attuali parlamentari, basta, ne avanzano, e questo Grillo è perfettamente d'accordo. Bah, ma a me non mi pare, Grillo è a favore del mantenimento del Senato. Vedrete. Intanto però bisogna distruggere, la distruzione è imperativo categorico. Cioè, tu speri che momento. Forza Italia prenda, vada incontro alla disfatta più totale alle europee? Io spero che Forza Italia vada incontro alla disfatta più totale alle europee, al fine di mettere in condizione Forza Italia e il suo capo, che è Silvio Berlusconi, di tornare sulla retta. Ma quello, sta messo male, non sa che succederà il 10 aprile. Questa è una vergogna questa qui, guarda. Perché che debba vedere oggi comunicato che c'è un gruppo di assistenti sociali che stanno stabilendo se è reinseribile nel tessuto sociale o altro, ma veramente fa schifo, fanno, è veramente uno schifo. E mi meraviglia che questo napoletano che non ha saputo fare niente della Repubblica, almeno una cosa buona poteva farla e potrebbe ancora farla. E che può fare? Non dico dandogli la grazia, ma commutando la pena, 20 milioni di euro da versare alle casse dello Stato in cambio della eliminazione di ghiacciata. Ma come? Chiedono i voti per poter fare le riforme e poi si pongono il problema se sia reinseribile nel contesto sociale. È veramente una cosa. Ma sono due cose diverse. Una cosa è la politica e quelle sono le condanne, professore. No, ma chi se ne frega delle condanne? Ma come chi se ne frega? Ma io non faccio discorsi di condanne o di non condanne. Sto parlando di commutazione della pena, che significa non escludere la responsabilità di Berlusconi, ma dire siccome è un capo politico, siccome è un capo politico. Ma allora coerentemente non siano a rompere gli coglioni chiedendo i voti per fare riforme. È veramente una contraddizione. Quello è vero, ma questa è una questione politica, però, professore. È una questione politica, d'accordo, è politica. Perché devono chiedere a Berlusconi i voti? Ma i magistrati che devono fare? Ci sono le condanne. Ma i magistrati fanno un sacco di quelle cose che non dovrebbero fare, di quegli errori che si contano, che non si riesce più a contarli, figuriamoci se ci stiamo a preoccupare. Ma insomma, scusate, qui parliamo di frode fiscale. Ma quanti sono i cittadini italiani che possono dire di non aver fatto una frode fiscale? Quanti sono? Quello è stato condannato, professore, c'è poco da fare, è stato condannato e la legge prevede che ci sia, che oltre che al fatto che non può votare, che insomma l'interdizione, lo sappiamo, c'è la legge Severino, poi c'è anche la questione dei servizi sociali, insomma la pena deve essere scontata o no? La commutazione per un anno e 4 mesi, questo c'ha 8 mesi da fare e non gli si può dare la commutazione della pena, non ho capito. E chi la deve decidere questo? Il capo dello Stato. Vabbè, ma quello figuriamoci, un attimo solo, fermi. Io non faccio mai niente senza soldi. Rosa, rosa, rosa, se va bene, rosa. invece s'appoggia. S'appoggia proprio addosso a me. E questo no, i piedi non sono un feticista, non mi faccio leccare i piedi. Preferisco farmi leccare qualcos'altro, scusami, che i piedi. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Nene Mora e il mitologico, mitologico, diciamo la verità, Marcello Dell'Utri. Io vorrei farvi riascoltare per qualche istante la splendida performance, Parenzo, tu te la ricordi, dell'indipendentista Bortotto venerdì scorso qui alla Zanzara? Beh, diciamo pura, che si... pura letteratura. Partiamo, Bortotto, Movimento di Liberazione Nazionale Veneta, Veneta. Siamo trattati come gli ebrei durante il nazismo. Voglio capire, vabbè, prima di darti la parola, se Bortotto la pensa allo stesso modo. Io se la penso allo stesso modo, peggio direi. E direi che quando sarà il momento, ai nostri persecutori daremo la caccia come fanno gli israeliani oggi ancora con i nazisti. Questo è poco ma sicuro, l'abbiamo promesso, d'accordo? Perché sono dei criminali. Quell'automatizzato che spruzza. Io ho un altro inno che è un altro che la Giudizia trionfa, che è questo. E ascoltatelo bene perché questo è l'inno della nazione veneta. Ed è fatto da Vivaldi, visto che mi ha messo l'inno straniero italiano. No, no, mai avuto e non lo avrò mai il passaporto italiano. Anche se ho lavorato in questura per 22 anni non ho mai avuto il passaporto italiano. Io, guardi, come ho già fatto in altre volte, esco con i documenti del Movimento di Liberazione Nazionale. Come sempre, già detto e ribadito, sempre pronto a morire per la patria. È la mia patria, è la Repubblica Veneta e non è l'Italia, sia chiaro. Che siamo in una condizione di belligeranza, purtroppo, con l'Italia. Non da parte nostra, ovviamente, perché gli atti che fanno sono atti di aggressione e di guerra contemplati da questo, dal protocollo di Ginevra contro il popolo veneto. Mi faccia piacere, non mi faccia vomitare, per cortesia. Il tricolore, io rispetto tutte le bandiere, ma la mia bandiera e la bandiera del popolo veneto non è il tricolore, ma il gonfalone di San Marco, d'accordo? Non scherziamo su queste cose qua, eh. Bortotto, Movimento Nazionale di Liberazione del Veneto, come diavolo si chiama, la Zanzara, venerdì scorso, un grandissimo, direi, un grande uomo di spettacolo, possiamo dire, Parenzo, no? Beh, lui non so se è contento di questo. Ma io non so se è contento o no, sicuramente un grande uomo di spettacolo. Ma lui ci crede davvero? Il neogrillino ha acquisito il professore avvocato Carlo Taormina. Eccomi. Siamo sicuramente allora col voto a grillo al 100%. Guardi che tra poco io e lei saremo in tribunale. Perché aspetti. Saremo citati da un'associazione di omosessuali, i quali ritengono di essere una categoria e perciò legittimati a fare richieste di risarcimento del danno per essere stati discriminati dalla Zanzara e da me che sono stato vostro ospite. Lo so, è l'associazione che si chiama Avvocatura per i diritti LGBT. Ma io ho trovato un avvocato d'eccezione che mi difenderà. E chi è? E faremo una battaglia di quelle che non finiscono mai. Ma noi siamo pronti, siamo qui prontissimi. Intanto per capire se ci possono essere queste associazioni legittimate a fare cause. Beh, quello sì, quello no, immagino. No, assolutamente no, perché gli interessi diffusi sono una cosa e le associazioni sono un'altra cosa. Puoi andare in giudizio. Sì, vabbè, però questa è una cosa tecnica, dai. Interesse diffuso. Ma no, e questa è una cosa tecnica. Ma che un omosessuale è un interesse diffuso, mi faccia capire. Perché no, non è un interesse diffuso. No, nel modo più assoluto. Si tratta di persone come altre che fanno parte della società, allora anche gli omosessuali sono un interesse diffuso e possono agire per ma lei sa che significa LGBT, sa che significa? No, guardi, non me ne fotte proprio niente, mi interessa soltanto sapere che si arrivi a questo ridicolo come quello appunto di poter intentare cause di risarcimento del danno. Ma in Argentina la Kirchner è stata alla cerimonia in cui è stato battezzato, credo, il figlio di una coppia di omosessuali, di lesbiche. Penso un po' che roba, a che punto siamo arrivati. Una cosa meravigliosa, appunto, è stata una cosa meravigliosa, va bene per il Papa sarà contento, io no. Come il Papa è contento? Il Papa mi pare che abbia fatto questo tipo di aperture, quella è una terra che gli è particolarmente cara, per cui insomma. Ma secondo lei il Papa è a favore dei gay mo adesso? Ma il Papa è un Papa strano, quindi è un Papa strano questo qua. Strano. Scusami, uno che si mette a vendere il Vangelo dalla finestra, o altre cose, insomma, francamente. Lei preferisce un Papa più tradizionalista, diciamo la verità. Io preferisco Ratzinger mille volte. Mille volte Ratzinger, sì. Mille volte più sobrio, più distante, più Papa, Dio, più regale. Più Papa. Comunque, guardi, ma LGBT, che vuol dire LGBT? Non lo so, lo saprà lei, io non lo so. Voi siete pratici di queste cose, io no. Noi siamo un po' froci, sì, è vero. Così vi dichiarate. A me piace pure leccare i piedi, professor Tormina, che devo fare? Lei se li faccia leccare. C'è un problema, si figura. No, scusami. Dimmi. No, io Giuseppe. Quelli mi scrivono sempre, David, mi scrivono sempre su Twitter, dicendomi: ma David Parenzo è una checca o non è una checca? Io ho garantito che non lo sei. Bravo. Dirvi questo. Io sono seriamente preoccupato perché mi pare che se Taormina parte all'attacco volendo, come dire, mettere in discussione anche l'associazione che ci ha denunziato, questa volta finiamo al gabbio tutti quanti. Cioè, ma quale gabbio? Andiamo tutti al gabbio, state tranquilli. Ma quale gabbio? Comunque, io ho paura quando Taormina si scatena così e va all'attacco di tutto. Il tempo è peggio, ragazzi miei. Bello mio. Il tempo è galantuomo. Comunque, io voglio capire una cosa, no? Cioè, queste associazioni qua sono associazioni per i diritti degli omosessuali. Ma che ci stanno i diritti degli omosessuali? Perché non devono esistere. Nessuno contesta certi diritti degli omosessuali. L'omosessuale ha i stessi diritti miei. Beh, certo. Ma quelli si vorrebbero sposare. Ma questo andassero a farlo in qualche altro paese, non da noi. Se lo vogliono quelli fare. Vorrebbero. In Argentina stanno così bene. Ma guardi che è pieno di froci in Italia, professor Tormina. Lo so. È una grande verità. Appunto, io dico una grande verità. Lei dice purtroppo, no? Purtroppo. Dico purtroppo. Ho capito, però assolutamente contrario a questo tipo di. Sì, d'accordo, ma uno non è che può dire sono contrario al fatto che ci siano, ci sono, ormai ci sono. No, ci sono, prendiamo atto, già basta che non rompano i coglioni, poi per il resto possono fare quello che vogliono. Ma ho capito, ma quando è che rompono? Io voglio capire, quando è che rompono i coglioni? Guardi, rompono i coglioni quando fanno i gay pride. Un attimo solo, professore, siamo al top, un attimo. Non risponde purtroppo. Ma chi è? Non risponde purtroppo. Ma che è? Un bel ambiente. È un ambiente maiale. Dove vai, professore? Se n'è andato. Siamo tre. Vabbè, ciao, professore. Ciao. Dov'è che vai? Professore, dove sta andando? Vabbè, ciao. Ma Cruciani ormai è diventato un sovietico. Sulla strada. E cadono le ceneri della città. Giovanni da Bergamo. Buonasera. Sì. Tanto buonasera, dica Giovanni, non è che posso dire buonasera 40 volte, sennò divento matto. No, può dirlo comunque, io chiamo una volta, quindi lei può dirlo. Sì, tranquillo. Niente, no. Tranquillo. Buonasera, avanti. Volevo solo dire che il signor, come si chiama, quello di prima... Comunque l'elemora poteva essere anche il perdono di Canossa, mi sembra una cosa un po' oramai vetusta, non ci credo a quelli, finché faceva la bella vita mi andava bene, poi come è caduto in disgrazia il perdono di Canossa, non mi piace. Ho capito, però uno non è che non può redimersi nella vita, può succedere, magari non è sincero, non lo sapremo mai, magari la sera va a puttane o a puttane, non lo sappiamo. Dopodiché se uno dice ho fatto una certa vita e adesso addirittura non riesco manco più a trombare perché quello ha detto, uno ci deve credere. E uno ci deve credere, poi può anche non crederci. Era anche passivo, diceva il buon Corone. No, non ha detto passivo, ha detto che diciamo altre cose, diciamo la verità. Ha detto che non faceva, non lo dava e non lo prendeva, faceva un altro tipo di attività sessuale. sì, va bene, lo gioco magari. Vabbè, però vabbè, fa niente. Esatto, bravo, sì, quello che lui ha chiamato il bombo bombolone, che ha chiamato una cosa del genere. Vabbè, allora? Niente, non ci credo che adesso si sia non ci redento. Credo. Non ci credo, forse sarò io, sarò cattivo io, non discuto, però non ci credo alla redenzione di queste persone. Vabbè, grazie. Natale, niente, Caserta, buonasera. Natale Caserta. Eccomi qua, ci sono Giuseppe? Sì, ci sei, ci sei? Ciao, buonasera. Allora? Allora, io volevo precisare una cosa. A tutti i radioascoltatori che sì. praticamente ti accusano di andare contro il Sud, gli dico che hanno perfettamente ragione. Sì. E anzi, aggiungo che essendo tu un ignorante, nel senso che ignori la materia... Sì, ignoro, sì, certo. ignori, posso solo dirti che... bisogna prima che ti documenti e non dai le notizie così praticamente, che le prendi dal giornale e le spari. Ti riferisci, alla mappa fatta dall'Agenzia delle Entrate? Esatto, sulle... esatto. Aggiungi tu. Io aggiungo che dovresti praticamente per correttezza nei confronti sì. proprio dei cittadini del Sud, che già sono da molti anni, anzi con la precisione da 150 e passa anni, vessati da determinati tipi di atteggiamenti. Nessuno è vessato, dove... amico mio, no, nessuno no, è vessato. No. È molto comodo adesso. La tua ignoranza in materia andrebbe sì. approfondita sì. e dopodiché puoi fare un intervento come lo hai fatto prima in radio. Cioè, senti, amico mio, o dici le cose come stanno oppure non ho capito bene. Dimmi. Le cose stanno così. Il nero in Italia l'hanno inventato proprio i veneti sì. e ancora oggi è una prassi consolidata in quella parte del paese. Noi che praticamente combattiamo dalla mattina alla sera la condizione del Sud, non avete nemmeno idea in che condizione sta, poi ci date anche addosso come se la colpa fosse nostra, ci chiamate evasori così come se niente fosse. Ma guardi che è una cosa dell'Agenzia delle Entrate. Cioè... No, l'Agenzia delle Entrate fa uno studio dove ha detto che praticamente c'è il rischio, certo. non la certezza che in quelle certo. zone e si quello... vade. Ma quello abbiamo detto, guardi, mi ha mandato una mail un ascoltatore, se non sbaglio le informazioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate si riferiscono al rischio di evasione legato alla situazione economica delle aree a cui si fa riferimento. Il Sud ha un rischio maggiore perché a causa della crisi è possibile l'aumento della cosiddetta evasione di necessità. La stessa pubblicazione dice che le aree del paese dove il valore assoluto di reddito evaso sono nel nord-est, dove il valore assoluto di reddito evaso sono nel nord-est. Dopodiché è evidente che non è che ho detto che lì sono dei criminali e là dei virtuosi, ho detto che ci sono delle sfumature. Il rischio di evasione è sicuramente maggiore al sud, questo ho detto. Marco da Catania. Allora, caro Cruciani, per ribadire una cosa che diceva il signore di prima, che è un genio, veramente lo ammiro, gli do la mia profonda stima. Gli sì. anni da cui siamo vestiti sono 153 maledetti anni. Basta con sta storia di vessazioni subite dal sud, datemi una mossa, rimboccatevi le maniche. Guarda, dottor Cruciani, che fate la battaglia contro la regione Sicilia, che sono dei parassiti. Noi la battaglia contro il porco stato colonizzatore ma italiano, quale porco contro stato la battaglia, colonizzatore? Contro persone squallide, esattamente come che sono ignoranti, come oggi è diffuso in modo ignorante la sua notizia, perché a sud si evade in numero di più rispetto al nord, ma si evade per necessità. Beh, certo, perché le cifre sono maggiori. No, mi si a sentire, al sud c'è la deflazione. Oggi i giornalisti hanno riscoperto la parola deflazione perché sta colpendo anche Vabbè. Il nord. Noi sono 153 Senta. Anni. Marco, se lei pensa che il sud sia, come dire, vessato. Sì, vessato dal nord, gli dico, la linea è stata fatta dal nord del signor Maroni il 1° dicembre e il 1° gennaio 2011. Vogliamo andare avanti? Ciao Marco, a parlare tutti i furti che il nord ha perpetrato. Ci sentiamo domani. Ma quali segreti? Ma quali segreti? L'unico segreto che ho, e non lo dite a nessuno, perché sennò mi rompete i coglioni un'ennesima volta, è che mi rode il culo di non essere al posto di Toti, anche perché sarei bravino anch'io. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mi rode il culo! Radio 24. La passione. Si sente.